questo di più. Mio cuore, che dici? Facciasi, e questo forse o al mio amor servirà o a mia vendetta.